Bene, allora, sdraiati, supini, cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. È una lezione seduti sulla inclinazione laterale del torace e della colonna. Quindi partite, osservate come sono messe le punte dei piedi, i piedi, come appoggiano i talloni. Quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, e fate particolare attenzione a come appoggiano le vertebre toraciche e le costole e come si muovono le costole sia davanti che dietro. Costole basse esterno, costole alte di lato, e poi salite ed osservate come è messo il collo, la testa, come tenete la bocca, e come sono messe le spalle e le braccia. Quindi osservate se siete riusciti ad abbandonare tutto il peso del corpo sul pavimento. Poi lentamente, rotolate di fianco, vi sedete, vi alzate e vi sedete in due sulla panca e in una persona sul tavolo. E osservate se quando siete seduti, per tenere le cosce parallele al pavimento, avete bisogno di mettere sotto i piedi qualcosa, qualche materassino, qualche libro, coperta. E vi sedete sul bordo, là, metti i cuscini se hai bisogno. Ho un dolore qua. Vi sedete sul bordo e appoggiate i talloni sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia. Sì, però la pianta del piede deve essere ben appoggiata, quindi in caso spostate avanti l'appoggio su quale avete il piede. Ok, quindi 90 gradi tra coscia e gamba, tu ne prendi un altro. Bene, allora piedi e ginocchia larghi come il bacino e cominciate mettendo le mani sulle cosce a guardare verso il soffitto. E a destra muoviamo solo gli occhi? Tutto quello che viene a muovere. E ritorno. Massima efficienza e minimo sforzo. Quindi se vi viene male al collo significa che lo state muovendo troppo e magari muovete troppo poco altre parti. Quindi il succo del discorso è muovere più o meno il collo e vedere se altre parti possono essere mosse un po' di più. Non è che bisogna guardare il soffitto, ma si guarda in direzione di il soffitto. Quindi evitate lo sforzo, osservate se continuate a respirare mentre fate il movimento, se trattenete il respiro, e man mano che lo fate, osservate se potete far partire il movimento dalla pancia e dal bacino, quindi quando guardate in direzione del soffitto, lasciate che la pancia caschi in avanti verso il pavimento, inarcando leggermente la schiena. Inarcare la schiena però non significa forzare la parte lombare. Significa formare un arco che parte dal coccige e arriva fino alla testa. E osservate se quando guardate in alto, inspirate o espirate. Come vi viene meglio? In che modo viene meglio? Espirando o inspirando? Espirando tutti? No, io in. Tu in. Barbara, ma anche tu. No, una volta inspiro, una volta espiro, non so perché. Guarda di su. Mm. Ma forse perché lascio passare lo spazio e il tempo. Bene, adesso guardate come siete seduti e osservate se per stare seduti più o meno dritti siete seduti in modo dritto ma abbastanza comodo, o se è quando, come quando la mamma dice al bambino sei dritto, questo si raggizza, si mette sulla tenti e dopo un po' pluff, si appoggia tutto. Quindi osservate qual è il vostro modo di stare dritti, se è un vostro modo piacevole, abbastanza organizzato, o se è un po' coatto. E se è un po' coatto, afflosciatevi lasciandovi andare, flettendo la testa in giù e incurvando la schiena, facendo una specie di gobba, e poi ritornate seduti. Tanto male? Fallo piccolo piccolo. Fallo piccolo piccolo, ma fallo senza spingere nella parte bassa, ma mettendo l'attenzione nella parte alta, lascia le spalle morbide e la testa va in giù. Osservate, sentite che lo sterno va in dentro, che il pube sale verso la testa. E ogni volta che avete bisogno, vi appoggiate o al muro, allo schienale muro, o vi sdraiate. Ok. Adesso di nuovo guardate verso l'alto e mentre guardate verso l'alto lasciate che la bocca si apra. E osservate se questo guardare verso l'alto è uno sforzo nel collo e nella parte bassa, o se riuscite a farlo con un estendervi mentre vi allungate. Quindi il lavoro di inarcarsi è suddiviso su tutte le vertebre. Osservate se state flettendo troppo indietro il collo, vi dà fastidio rispetto al resto del corpo. È un movimento nel quale la colonna vertebrale viene allungata verso l'alto e inarcata, flessa indietro. Okay. Bene, adesso mettete le mani intrecciate e appoggiate col palmo sulla fronte, il gomito fuori, e no, se potete state seduti sul bordo, se avete bisogno di riposo vi appoggiate, ma se lavorate state seduti sul bordo e con le mani appoggiate sulla fronte allungate i gomiti al soffitto e guardate con la testa al soffitto senza spingere troppo sulla testa con le mani. E ritorno dritti e poi di nuovo muovete i gomiti e la testa verso il soffitto e ritorno. E sentirete che il movimento vi risulta ancora più facile se quando andate con i gomiti verso il soffitto le scapole si avvicinano tra loro e alla colonna vertebrale. Piano, piano, piano. Osservate se continuate a respirare. Buonanotte. Vi riposate un po'. Non forzatelo, cioè l'idea è di muoversi in direzione del soffitto, ma non è che dovete guardare il soffitto, perché allora invece che allungarvi e inarcarvi prendete indietro, cioè vi allungate e inarcate e non sentite il dolore, vi inarcate solo facendo il fatto del collo e vi dà fastidio come nella parte lombare. Ok, rimanete seduti sul bordo, appoggiate la radice del palmo delle mani verso i polsi sul mento e con le mani vi avvolgete, prendete le guance, i gomiti stanno rilassati e in questa posizione ancora una volta lentamente muovete i gomiti andando verso il soffitto e ritorno. Ovviamente sempre con l'idea, mentre i gomiti vanno verso il soffitto, di allungare la colonna vertebrale e di fletterla indietro. Tutta. E ritorno. Quindi il lavoro dei gomiti vi aiuta a migliorare la consapevolezza del movimento di estensione. E osservate, se ve ne accorgete, su che ischio tendete a portare il peso. Se su entrambi o se di più su uno. E riposo. Piano. E adesso mettete il palmo, la radice della mano sinistra, scusate un attimo, mano sinistra sulla fronte e piano piano piano estendete il gomito verso il soffitto e ritorno. Quindi la testa rimane un pochino girata verso l'angolo alla vostra sinistra. Mano destra sulla coscia destra, mano sinistra poggiata con la radice e il palmo e il polso sulla fronte, le dita sulla testa e il gomito sinistro piano piano sale verso il soffitto e torna, quindi è un continuo salire e scendere. E da che parte tendete a portare il peso? Ischio destro o ischio sinistro? Adesso si sente di più il destro. Eh? Il destro, io il destro in questa posizione qua prima, no? Allora, in teoria quando una parte si estende, tutto si estende, ok? Allora, se sollevate anche a sinistra, mentre allungate il gomito sinistro e siete un po' girati con la testa sinistra, cosa si fa secondo voi per allungare ancora di più il lato sinistro? Si preme sull'ischio sinistro. Ok, allora quando andate col gomito sinistro in alto, premete sul lato, sull'ischio sinistro e lasciate che il lato sinistro si allunghi. Male da qua. E cambiate mano. Mettete la radice del palmo destro un po' più in su verso la mano dove c'è il polso e le mani sulla fronte e le dita della mano destra sopra la testa, e anche questa volta la testa questa volta è rotata un po' a destra e allungate il gomito destro verso il soffitto e ritornate al centro. E questa volta il peso dell'estensione che parte passa in tutto il corpo, che si allunga, il peso sull'ischio destro e continuate piano piano piano, andate, respirate e tornate, lasciate andare e vi sdraiate un po'. Ora sdraiamo qua? Sì, sì. Mamma mia. Tieni dentro anche i piedi. Io sento un blocco qua. Un granito. Mamma scenca. Vedrete alla fine i vostri miglioramenti. Che fine hanno fatto le donne? Hanno telefonato che tutte e tre non ce la fanno venire oggi. Un blocco veramente. E osservate come respirate, come sono messe le costole. Come si muovono le costole. E poi lentamente, quando siete pronti, arrotolate su un fianco, arrivate seduti e andate a sedervi sul bordo della seggiola. Non ho capito questo girare a destra quando sei sceso a sinistra. Vediamo se lo capisco anch'io. Perché ti giri via? Perché la devi essere spontanea. Allora... Sì, però devi scendere a sinistra. È vero. sperimenta, sperimenta qualcosa di nuovo. Ok, seduti sul bordo, piedi lati come il bacino, talloni sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio, mano sinistra sopra la coscia sinistra, mano destra appoggiata sopra la testa. Quindi il gomito destro è un po' in fuori e piano piano inclinate la testa a destra e ritorno, evitando di mettere troppo peso della mano sulla testa. La mano sta leggera, è solo una scusa per far sì che il corpo impari a muovere insieme, flettendo, inclinando a destra, testa, braccio e spalla. E continuate a farlo osservando fin dove arriva, fin dove passa il movimento e come vi muovete. Fino a dove lo sentite? Domanda, fino a dove sentite il movimento? Stavo ascoltando. No, io cosa? No, non è da busta. Stavo pensando. Fin dove sentite il movimento di inclinare? Fin qua, io. A metà schiena. Ok, gli altri? Piede destro. Piede destro, cosa fa? Ah, si accorcia, non so, cioè è tutto un... Sento tutta la parte destra che si accorcia. Eh sì, però spiegati un po' meglio, che così aiuti anche gli altri. Sembra che si... Come... se alleggerisce la parte sinistra, si... Sì. Era quello che volevi dire anche tu, Antonella, sì. Alleggerire la parte sinistra e comprimere, sì, la destra. Sì, esatto. E il piede destro cosa stava facendo? Premeva un pelito. Ok, provate a farlo allora, adesso che hai fatto questa scoperta. Quando inclinate la testa e il gomito destra, provate a premere il piede destro. Che succede? Riesci a piegare di più, mi sembra. Ti riesci a piegare di più? Solo riesci a piegarti di più l'assa? Nient'altro succede? Si allunga di più la parte, tutta la parte sinistra. Si allunga di più la parte sinistra. Ok. Il peso dove va, a destra o a sinistra? Beh, se premo col piede destro o sul destro. Mi si stacca proprio. So che te l'avevo detta. Se tu premi col piede destro, il peso del corpo va sul piede destro? Va su. E il lato sinistro si allunga? Esatto. Ok. Ma per premere dovrebbe essere il contrario. Perché io premi... Io devo proprio sforzarmi per premere. Ci viene normale, premere questa. Se sposti tutto il peso sulla parte destra. Però se dovessi premere... piede destro, il peso mi va sul sinistro. Mm-hmm. Provate tutti e due i modi. Inclinate la testa a destra e osservate se premendo il piede destro si solleva l'anca a destra o l'anca a sinistra. Prima fate quello che vi viene naturale e poi anche l'altro. Mi si solleva solo l'anca sinistra. Ma che adesso è quella. Provate tutti e due i modi. Non ce la faccio a tirare sulla destra per me il piede di destra. Devo proprio... Cioè, sì, anche io mi devo sforzare, devo fare così. Ma neanche che la fo, però. Cioè, mi risulta più naturale, cioè se premi la destra, sposti il sinistro, alzi anche a destra. Io se premo la destra rimango ferma praticamente. È un movimento sperimentale. Ecco. Tenendo i talloni tutti e due sempre spiaccicati, appoggiati, che premono il pavimento. Quando mi sposto una parte. Ok, adesso vi riposate, dopodiché mettete la mano sinistra sulla testa. Ma inclinate la testa a destra. A destra. E osservate come lo fate. Cosa succede nel resto del corpo? Che piede state premendo, il destro o il sinistro? Il destro. Io prima. Adesso mi viene più spontaneo premere il piede destro. Prima invece da questo lato non ti veniva. Però è sempre un'inclinazione a destra. Bene, portate il peso, oltre che sul piede destro, sull'anca sinistra o sull'anca destra. Quando inclinate la testa a destra, con la mano sinistra sulla testa e col gomito andate verso il soffitto, portate il peso sull'anca sinistra, ischio sinistro o ischio destro? Destro. Ah, è una domanda. Sinistra. Destro. Stavo meglio. No, ma siamo noi sbagliati. Che lato si allunga? Sinistro. Ok. Allora, se un lato si allunga, cosa succede quando un lato si allunga? Sì, ma... Ok. Capito cosa dici? Dovrebbe essere il lato l'ischio sinistro che si preme. Però allunga... Infatti, io premo il sinistro, non premo il destro. Perché se premi il sinistro si allunga ancora di più. Allora è una sensazione che si prema il destro, mentre in realtà... è naturale premere il destro, ma per allungare di più... No, piano. Prendere il piede destro non vuol dire allungare il lato destro. No, ho detto. Magari è la sensazione che ho di premere il destro, in realtà premo il sinistro perché mi sento pesare qua. Ah, ok. Cioè, parlavi dell'ischio tu, ok. Sì, sì. Mm-hmm. Provate, continuate a farlo. Perché è importante sentirlo. Sembra di pesare sul destro perché vado a destra, ma in realtà è questo che tiene fermo. Che faccio fatica a prendere il sinistro. Ah, se non lo prendere il sinistro o no? Il sinistro. Se non lo prendi, ti alzi. Ma infatti non faccio fatica a prendere. Mi si alza, infatti. Cioè, non mi si alza perché non si alza. Porto tanto. Non si alza perché lo prendi. No, io prendo. Per un altro, cioè, provate a prendere un bel po' col piede destro mentre inclinate la testa a destra con la mano sinistra sopra la testa e il gomito verso il soffitto. Piano, senza staccare il tallone. Premete il piede destro lasciando il peso va sull'ischio sinistro. Lasciate che il fianco sinistro si allunghi e che il destro si accorci. Quindi se il lato destro si accorcia, l'anca destra si solleva verso la testa e la testa scende verso l'anca. Qui c'è un problema a dire a questa parte. Porca miseria, sono un po' solo adesso. Non capisco. E riposate un po'. Oh, io guarda sto giro. Questo movimento di inclinazione è uno dei movimenti che quando lo faccio fare seduto alle persone fa sempre fatica a percepire. Quindi si vede che le persone non lo fanno tanto e sì che è così ovvio. Cioè io mi inclino a destra, tutto si inclina a destra, mi inclino a sinistra, tutto si inclina a sinistra. Per aumentare la C, quando vado con la testa a destra, l'anca destra sale. E quando ho la destra sinistra? Può essere anche una postura che abbiamo. Sì, può essere anche scogliosi, abitudini, sì. Ma siccome succede nel 95% delle persone, è più della postura che avete, è proprio una mancanza di abitudine a questo tipo di movimenti. Ci sono dei movimenti che non sono fatti tanto. Tipo soprattutto col torace. Io per lavoro tendo a muovermi quando faccio i tagli o comunque le pieghe. Però mi accorgo che nel lato destro ti viene bene, nel lato sinistro no, ma se mi guardo allo specchio sono anche diversa da un lato all'altro. Vabbè, certo, ma tutti siamo asimmetrici, ma bel po'. Anche se ci sono anche dei... la ciccia è diversa. Sì. Anche se ci sono degli studiosi che dicono che tenendo perfettamente ferme le persone hanno provato con tutta una serie di macchine, eccetera, dicono che si può arrivare alla simmetria, io dico che quando una persona è viva e si muove, la simmetria è impossibile che ce l'abbia. Non esiste neanche secondo me, solo il fatto che uno è destro mancino. Bene, adesso rimettete la mano destra sopra la testa. Lasciate il braccio sinistro a penzoloni verso il pavimento. Siete sul bordo, sugli ischi, e inclinate il gomito della testa a destra verso destra. E ritornate. E osservate come lo fate, come lo state facendo, cosa muovete. Di là mi è spontaneo premere, alzare. Deve sapere, no. E sì, che è sempre inclinata a destra, non è che era inclinata dall'altro lato, solo che avevi l'ausilio e l'aiuto del braccio sinistro. Ok, adesso man mano che lo fate lentamente, senza rimanere con la testa in mano, quando inclinate la testa a destra, l'anca destra si solleva e va verso il gomito destro che scende. Ok. Il tallone destro sta premuto sul pavimento e anche il piede e anche il sinistro. E adesso, rimanendo inclinati verso destra, in quella posizione, lentamente sollevate e abbassate un po' di volte la spalla sinistra. Verso l'orecchio sale e poi scende verso il sedile. E poi di nuovo sale verso l'orecchio, non indietro ma in su, e poi piano piano piano senza lasciare andare in giù. Poi di nuovo salite e di nuovo scendete. E vi fermate, riposate un po'. Tutto. Però evitate, quando avete la mano sulla testa, di tirare troppo la testa e il collo. La mano può semplicemente appoggiarsi con il peso di 10 grammi o premere al punto di essere quasi un chilo. Quindi mano come se fosse una piuma appoggiata sulla testa. Ultima volta, mettete da questo lato, mettete la mano destra sopra la testa e inclinate la testa a destra e ritorno. Ok, cambiate, mettete la mano sinistra sopra la testa e cominciate, mano destra appoggiata sulla coscia, e cominciate a inclinare la testa a sinistra. E osservate come viene il movimento da questa parte, che di sicuro sarà un po' diverso. Può essere meglio, può essere uguale. Quindi lentamente inclinate la testa e il busto a sinistra. Osservate se portate il peso sull'ischio destro o sinistro. Osservate che ischio sollevate, osservate se premete il piede sinistro e la pressione del piede sinistro cosa fa cadere nell'anca sinistra, se la fa appoggiare di più o se la fa sollevare. Cosa succede? La fa sollevare, premo il sinistro, sollevo l'anca. Premo il piede sinistro, sollevo l'anca sinistra e premo L'anca destra. L'anca destra. E il gomito sinistro, la testa, l'anca sinistra. Ok? E continuate. E continuate, quindi sentirete che il lato destro del torace e delle costole si apre come se fosse un ventaglio nella fisarmonica. E il peso è sull'ischio destro. E le piante dei piedi sono bene appoggiate a terra. Osservate come tenete la bocca, come respirate. E riposate un po'. Ed ora ritornate sul bordo, mettete il campo al piede. Assolto. Premi, alzati i piedi, premi. No, no, passato. Mettete la mano destra sopra la testa e inclinate la testa a sinistra. Piano. Quando il gomito destro sale verso il soffitto e la testa si inclina a sinistra, cosa fa il torace? Cosa fa il torace? Quando la testa si inclina a sinistra, cosa fa il torace? Si comprime da una parte, sì. Quale parte? Prima a sinistra e si estende a destra. Ok. E cosa fanno gli ischi? Si solleva quello sinistro e si prende quello destro. Quando sollevi sinistro? Quando inclino la destra, la destra a sinistra. Ok. Quindi continuate e lentamente, quando inclinate la testa a sinistra, lasciate che l'ischio sinistro si sollevi e portate il peso sull'ischio destro. Oppure potete pensarlo premendo il piede sinistro, quindi si solleva l'anca sinistra, oppure si può pensare allungando il fianco destro, quindi il gomito va verso l'alto e l'ischio destro preme su sedile. Buona l'ultima. Sono contenta. E riposate un po'. E ora di nuovo mettete la mano sinistra sopra la testa, lasciate la mano sinistra sopra la testa, braccio destro a penzoloni verso il pavimento, inclinate la testa a sinistra un po' di volte e torno, lasciate che il peso lentamente vada sull'ischio destro. E rimanete inclinati a sinistra con l'ischio sinistro sollevato e rimanendo col peso sull'ischio destro e sinistro sollevato, peso sull'ischio destro e sinistro sollevato, muovete la spalla destra in su e in giù. In su verso l'orecchio e il soffitto e in giù verso il sedile e il pavimento. Il peso è sull'ischio destro mentre il sinistro è sollevato. Il lato sinistro è accorciato e il destro è allungato. Movimenti piccoli senza stirare il collo. Piccoli e lenti, osservando come fate. e poi lasciate andare e prima di sdraiarvi a terra fate ancora l'ultimo, mettete la mano destra appoggiata sul ginocchio destro, mano sinistra sulla testa e più volte inclinate la testa e il gomito a sinistra osservando come viene. Molto lentamente, senza fare movimenti a scatto, osservando come si allunga il lato destro e come si accorcia il sinistro, come l'ischio destro prende sul sedile, la spalla si allunga al soffitto e come il quando il gomito sinistro va in giù e come quando la testa si inclina a sinistra e il gomito sinistro va in giù, il lato sinistro si accorci e l'anca sinistra si sollevi e vi sdraiate un po' a terra. E osservate i cambiamenti che ci sono nel modo di stare sdraiati a terra. Come è messo il bacino, la parte lombare e in particolare il torace, le costole, davanti, di dietro, di fianco, come si muovono, come appoggiano adesso. E poi di nuovo rotolate sul fianco, vi sedete e tornate alla seggiola. Intrecciate le dita delle mani, le mettete sopra la testa e inclinate il gomito destro una volta a destra, ritornate e inclinate il gomito sinistro una volta a sinistra e lasciate che il movimento arrivi fino al bacino, quindi quando il gomito destro va in giù a destra, l'ischio destro si solleva, quando il gomito sinistro va giù a sinistra, l'ischio sinistro si solleva e osservate come passa il movimento nel torace da una parte all'altra, aprendosi e chiudendosi come un ventaglio o una fisarmonica. Ok, vi riposate un attimo. Intrecciate le dita delle mani nel modo non abituale, serrate prima sopra il pollice destro, mettete sopra il sinistro, se non ve lo ricordate mettete quello che vi viene a caso e poi cambiate l'incrocio di tutte le dita, mettete le mani dietro la testa, non sulla nuca ma dietro la testa e non sulla nuca, non sulla nuca, dietro la testa e vi flettete in avanti, incurvando la schiena, no, non con la schiena dritta, ma incurvate la schiena, come se qualcuno desse un pugno. Allora, sì, quindi la parte lombare va indietro, viene avanti. È come lo sgroviglio quando si alza. Yes, come quando si è sdraiato. Facciamo col pube in alto. Sì, bravo. Il contrario di quello è il movimento che fate quando vi inarcate e lasciate andare pure la pancia avanti e vi accorgerete e tornate dritti in un estesi, vi accorgerete che probabilmente il movimento che riesce più facile in avanti se chiudete i gomiti. Perché? Perché se chiudete i gomiti le scapole si muovono in fuori e la colonna vertebrale tra i gomiti è libera di incurvarsi e di andare indietro. Attenzione che c'è differenza tra flettersi avanti tenendo la colonna più o meno dritta e muovendosi attorno alle anche e l'altro nel quale vi flettete avanti immaginando che uno vi dia un pugno e dovete andare indietro con la zona tra le scapole a toccare lo schienale della seggiola. Sentite la differenza? In uno la schiena sta dritta e ci si muove attorno alle anche, non è questo quello che voglio, è carino ma non è quello che c'entra in questa lezione. L'altro, i gomiti si chiudono, la testa si flette in giù, le mani non sono sulla nuca ma sulla testa e la zona tra le scapole va come indietro per cercare lo schienale. E man mano che andate indietro vi raddrizzate, osservate con che parte fatevi più la bobba. E una volta che vi siete resi conto di qual è la parte che tende a incurvarsi di più, vi incurvate cercando di incurvare meno quella parte che lo fa in modo esagerato e lasciando che imparino a incurvarsi di più altre parti. E probabilmente vi accorgerete che quando flettete la testa avanti, i gomiti sono chiusi, la schiena va indietro e tutta la parte anteriore si flette, si chiude, vi conviene espirare. Quando salite dritti, espirerete, anche se potete organizzarvi e fare il contrario. Però questo di espirare mentre andate in giù vi può aiutare. Riposate un po'. Quando è che facciamo gli esercizi per la prova postuma? Per la? La prova postuma. Già questi. Ah. Già questa quando non si sente parlare. Danza. Non si sente parlare da altra alla radio. Sì? Vabbè, fare solo la carnevale comunque. Adesso, fino a maggio. Senti che l'ultima la prova costume? Ah, si puoi. Per fortuna anche se non la gita show. Per fortuna non mi frega niente. Però lo farò un altro questa sera. Bene, adesso girate la testa e il busto verso destra. E rimanete girati con testa e busto a destra, mettete la mano destra sull'orecchio, la mano sinistra sull'orecchio destro, e rimanete con testa e busto girati a destra, e lentamente muovete il gomito sinistro verso il pavimento, in mezzo alle gambe, rimanendo girati a sinistra, guardando. A destra, e ritornando girate a destra e continuate la mano destra appoggiata sulla coscia, all'inizio della coscia, perché cosa tende a fare la spalla destra quando state girati verso destra e il gomito sinistro scende in mezzo alle gambe verso il pavimento o mai che vada verso il ginocchio destro? Cosa fa la spalla destra? Cerca di alzarsi. Va a trovare l'orecchio destro. Barbara? Si alza, non so se va a trovare l'orecchio, però si alza. Vi accorgerete che la spalla destra tende soprattutto a muoversi indietro. Se siete girati a destra e scendete, La mano destra sta appoggiata all'inizio della coscia verso il bacino e la spalla destra va indietro. E cambiate e fate la stessa cosa dall'altra parte, quindi appoggiate la mano sinistra sulla coscia, la mano destra, prende l'orecchio sinistro, siete girati verso sinistra e il gomito destro scende verso il basso, in mezzo alle gambe, verso il pavimento o verso il ginocchio sinistro. E lasciate che la spalla sinistra vada indietro. E riposate un po'. Poi abbiamo il gran finale. Preparatevi. Ma dai, lasciamo in pace, che può. E adesso, prima vi spiego e immaginate il movimento e poi lo fate. Allora, immaginate di avere entrambe le mani con le dita intrecciate appoggiate sopra la testa e con le mani appoggiate sopra la testa inclinate la testa e il gomito destro a destra, poi flettete e inclinate la testa e i gomiti che si chiudono avanti, poi inclinate e flettete la testa e il gomito sinistro a sinistra e poi estendete i gomiti e la schiena verso il soffitto, lasciando che si muova tutto il corpo, quindi facendo attenzione anche al movimento del bacino, che è quando vi inclinate a sinistra, a destra, si solleva anche a destra, quando vi inclinate avanti il bacino va indietro, quando vi inclinate a sinistra, sollevate l'anca a sinistra, quando guardate il soffitto, il bacino va avanti, ok? E la pancia cade verso il pavimento. Una volta che avete immaginato, avete provato nell'immaginazione, lo fate. E quando lo fate, lo fate con le mani intrecciate appoggiate sopra la testa. Qui i gomiti fuori. Cominciate verso destra, così siamo tutti dalla stessa parte. Inclinate verso destra, unendo tutto al lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi vi accorgerete che anche a destra si solleva. Poi vi flettete avanti, i gomiti si chiudono e il bacino va indietro. Poi vi inclinate a sinistra, si solleva l'anca a sinistra, si solleva l'anca a sinistra, il gomito sinistro va in giù, non dietro, in giù, e il destro va in su. E poi ci si estende, buttando fuori la pancia, inarcando la schiena. Quando inarcate la schiena, date fuori la pancia, la allungate e la estendete. E poi invertite il senso. E osservate come viene. Ok, lasciate andare, osservate come state seduti, dopodiché vi sdraiate e risolviamo gli appoggi. Osservare come appoggiano, come sono messi i piedi, come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come è messo il bacino da una parte, dall'altra. E poi come appoggia il coccige, l'osso sacro, se la colombare si è abbassata un po', e come sono messe le vertebre toraciche e le costole, e come si muovono sia davanti, dietro, di fianco, come è messo il collo, la testa, come sono messe le scapole, braccia, e poi quando siete pronti lentamente arrotolate il fianco, vi sedete, vi alzate in piedi e osservate come state messi in termini di piedi, che differenze ci sono rispetto al solito, poi fate qualche passo indietro e poi in avanti.